Il 24 settembre, per la festa della Madonna, la città è stata attraversata da una grande processione, di quelle in cui il clero del paese dispiega la più grande ostentazione. Queste processioni sono il solo divertimento del popolo. Le feste della chiesa peruviana danno un'idea di quello che dovevano essere i baccanali e i saturnali dei pagani, anche nei tempi in cui c'era una profonda ignoranza, la religione cattolica non metteva in mostra delle buffonate così indecenti, delle parate così scandalosamente sacrileghe. In testa alla processione sfilavano le bande dei musicisti e dei cantori, tutti mascherati, i neri e i sambo, i meticci, che derivano dall'incrocio delle razze india e nera. Guadagnavano un reale per il ruolo sostenuto in questa farsa religiosa. La Chiesa li vestiva in modo ridicolo, abbigliandoli da Pierrot, da Arlecchini, da Citrulli ed altri personaggi simili, e dava loro delle brutte maschere colorate per coprirsi il viso. 40 o 50 danzatori facevano gesti e contorsioni di una cinica impudenza, molestavano le nere e le ragazze di colore, indirizzando loro ogni sorta di proposte oscene. Queste ultime, mischiandosi ai danzatori, cercavano di riconoscere le persone nascoste dietro le maschere. Io distoglievo lo sguardo con disgusto da quella calca grottesca da cui provenivano urla e risa convulse. Dietro i danzatori veniva la Vergine vestita in modo sfarzoso, con il vestito di velluto decorato di perle e con dei diamanti sulla testa, al collo e alle dita. Era portata da 20 o 30 neri e seguita dal vescovo con tutto il clero. Venivano poi i monaci di tutti i conventi, riuniti per marciare insieme nella santa processione. Le autorità chiudevano il corteo ufficiale e la massa del popolo ridente, vociante e tutt'altro che in preghiera seguiva in disordine. Queste feste grandiose fanno la felicità degli abitanti del Perù e temo che non si riuscirà mai, neanche fra molto tempo, a rendere più spirituale il loro culto. La sera, su Piazza della Merced, all'aperto, si rappresentava un mistero. Mi dispiace di non essere riuscita a procurarmi il testo di questo dramma religioso, ma a giudicare da quel poco che ho visto e sentito raccontare, doveva essere un modello nel suo genere. Donna Carmen va pazza per ogni genere di spettacolo e io l'ho seguita alla rappresentazione, ma non siamo riuscite ad avvicinarci alla scena. I primi posti erano occupati dalle donne del popolo che erano rimaste in attesa sin dal mattino. Non avevo mai assistito a un simile entusiasmo. Si litigava per avere un piccolo angolo da cui poter vedere qualcosa. Con l'aiuto dei signori che ci avevano accompagnate, sono riuscita a salire su di un cippo e dal mio piedistallo abbracciavo con lo sguardo il magnifico quadro offerto dalla piazza. Sotto il portico della chiesa era stato innalzato una specie di palco, formato da alcune assi appoggiate su delle botti. La scena, scarsamente illuminata da quattro o cinque lampade, canché le antiche lampade a olio a doppia corrente d'aria alimentate da un serbatoio posto più in alto dello stoppino, era costituita da alcuni addobbi presi a prestito dal teatro della città. Per fortuna gli argentei raggi della luna diffondevano un brillante chiarore e supplivano alle economie degli organizzatori. La rappresentazione di un mistero sotto il portico di una chiesa, davanti a una folla immensa, era una cosa nuova per me, figlia del XIX secolo proveniente da Parigi. Ma lo spettacolo pieno di insegnamenti era la brutalità, erano i vestiti volgari, gli stracci di questo popolo, la cui profonda ignoranza e la stupida superstizione mi riportavano al Medioevo. Con le facce bianche, nere o color del cuoio esprimevano una ferocia selvaggia, un fanatismo esaltato. Non posso dire nulla sulla bellezza del dialogo perché le parole mi giungevano in modo imperfetto, ma il mistero assomigliava abbastanza a quelli che venivano rappresentati con grande pompa nel XV secolo nella sala del Palazzo di Giustizia per l'edificazione del popolo di Parigi, a cui ci fa assistere anche Victor Hugo nella sua Notre-Dame. Grazie ad alcune parole colte al volo, alle spiegazioni fornitemi dai conoscitori del teatro e con l'aiuto della mimica degli attori, sono riuscita a capire l'insieme della rappresentazione scenica. I cristiani vanno a combattere i turchi e i saraceni nella loro terra per riportarli alla vera fede. I musulmani si difendono con tenacia e hanno dalla loro il vantaggio del numero. I cristiani stanno per soccombere e si fanno il segno della croce quando arriva fra di loro la Vergine al braccio di San Giuseppe e con un lungo seguito di fanciulle celestiali. L'apparizione divina riaccende l'entusiasmo dei cristiani, che all'improvviso si avventano sui musulmani gridando: Miracolo, miracolo! Questi ultimi, pietrificati, sembrano avere dimenticato l'uso delle armi e il loro stupore è abbastanza motivato dalla vista di quella folla di belle ragazze, con la pelle di tutte le sfumature e la testa cinta da un'aureola di carta gialla, che si mescolano ai soldati. I musulmani temono di ferire queste houri del paradiso e mi sembra che ci sia slealtà da parte dei cristiani nell'approfittare di questo momento per piombare su di loro. In breve, il sultano e l'imperatore dei saraceni sono oltraggiosamente battuti e spogliati delle loro insegne del potere. Nella disgrazia, essi preferiscono essere re cristiani piuttosto che monarchi detronizzati, implorano la misericordia della Vergine e si fanno battezzare insieme a tutti i loro soldati. Beh, ho avuto l'impressione che la gloria di questa grande vittoria fosse dovuta più alle ancelle della Santa Vergine che ai soldati di suo figlio. Comunque sia, la Vergine sembra estasiata da questa grande conversione di massa. Fa molte gentilezze al sultano e all'imperatore. Nomina il primo patriarca di Costantinopoli e il secondo arciprete di Mauritania, lasciando loro il potere temporale. L'uno e l'altro giurano su un crocifisso portato su un piatto d'argento di garantire al clero cattolico la decima nei loro vasti domini e l'obolo di San Pietro al Papa di Roma. A un segno della Vergine il coro delle fanciulle intona inni e cantici, a cui rispondono a squarciagola le voci roboanti dei soldati turchi, cristiani e saraceni. Poi ci si mette a malmenare gli ebrei, che si trovano in gran numero nell'armata musulmana, dove sono accorsi da tutte le parti per comprare le spoglie dei cristiani. Poiché gli ebrei non si vogliono convertire, i cristiani e i nuovi convertiti li picchiano, prendono loro i soldi e i vestiti, dandogli in cambio degli stracci. Queste scene grottesche sono coperte da applausi. Poi ricominciano i cantici, nel corso dei quali l'imperatore e il sultano vengono spogliati delle loro empie vesti e rivestiti in gran pompa dalla Vergine degli abiti sacerdotali della loro nuova carica. Quindi arriva Gesù Cristo insieme a San Matteo, si ferma davanti alla madre e benedice i due eserciti ormai fusi in uno solo. Infine si apparecchia la tavola alla quale siedono in ordine gerarchico Gesù Cristo, la Santa Vergine, San Giuseppe, San Matteo, i generali cristiani, l'imperatore dei Saraceni e il sultano. Vi sono 13 coperti e un ebreo scivola furtivamente verso il tredicesimo posto, rimasto vuoto, per approfittare della cena. Mentre Gesù spezza il pane e fa passare il calice ai commensali, ci si accorge dell'inganno. Immediatamente l'ebreo viene strappato dal suo posto e appeso in alto, almeno in effigie, dai soldati. Intanto la cena continua e l'attenzione è catturata dall'azione di Gesù Cristo che, rinnovando il miracolo delle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino delle Canarie. In realtà c'è un negretto nascosto sotto il tavolo che sostituisce abilmente l'anfora dell'acqua con un'altra contenente vino. Durante il pasto, il coro delle vergini canta degli inni. Termina così la farsa che ho tentato, seppure in modo imperfetto, di descrivere. Il popolo, ebro, batte le mani, fa salti di gioia e grida con tutte le sue forze: Viva Gesù Cristo! Viva la Santa Vergine! Viva nostro Signore Don José! Viva nostro Signorissimo il Papa! Viva, viva, viva! È con questi mezzi che i pregiudizi dei popoli dell'America del Sud sono tenuti in vita. Il clero ha aiutato la rivoluzione, ma ha conservato il potere e lo conserverà ancora a lungo. Arequipa è una città dell'interno che offre risorse molto limitate al commercio e gli stranieri, che come in tutte le altre colonie del Sud America vivono di commercio, qui sono molto pochi. L'origine della città è avvolta nella leggenda. In una cronaca delle tradizioni indie conservata a Cusco, si legge che verso il XII secolo della nostra era, Maita Capac, il sovrano della Città del Sole, fu detronizzato. Egli si sottrasse ai nemici attraverso la fuga, andò vagando per le foreste e sulle cime nevose delle montagne insieme a qualche compagno. Il quarto giorno, sfinito dalla stanchezza e ridotto in fin di vita dalla fame e dalla sete, si fermò ai piedi del vulcano. All'improvviso, cedendo a un'ispirazione divina, Maita piantò in terra la sua lancia, gridando Arequipa, parola che in Quechua significa mi fermo qui. Il Quechua è il popolo amerindio originario degli altipiani del Perù che costituì il primo gruppo etnico su cui si fondò l'impero degli Inca. Quechua è anche la lingua parlata in Bolivia e in Perù. Quando si girò verso i compagni, Maita Capac vide che solo in cinque l'avevano seguito. Ma l'Inca aveva ormai fede soltanto nella voce di Dio e persistette nella sua decisione. Gli uomini costruirono le loro abitazioni intorno alla lancia, sul fianco del vulcano circondato da ogni parte dal deserto. Come altri conquistatori e fondatori di imperi, anche Maita Capac era stato solo il cieco strumento dei segreti disegni della provvidenza. Molte città progredite devono la loro grandezza ai propri meriti, ma anche a cause fortuite che non sembrano avere spiegazioni razionali. Arequipa si trova a 16 gradi e 13 primi di latitudine sud, ma la sua altitudine sul livello del mare e la vicinanza delle montagne ne rendono il clima temperato. La città è posta al centro di una piccola vallata di incantevole bellezza, larga non più di una lega e lunga non più di due. Chiusa dalle montagne su ogni lato, è bagnata dal Cile, la cui sorgente è ai piedi del vulcano. Il rumore di questo torrente ricorda quello del Gave, dei Pirenei. Il letto è curioso, molto largo in alcuni punti e stretto in altri, pieno di pietre enormi o coperto di ciottoli. A tratti offre ai piedi delle ragazze una sabbia morbida e uniforme. Il Cile assomiglia a un torrente in piena dopo la stagione delle piogge, mentre è quasi sempre in secca durante l'estate. La vallata è coltivata a grano, mais, orzo, alfa e ortaggi. Si vedono poche case per le vacanze. In Perù si è troppo occupati dagli intrighi per amare la vita di campagna. La città occupa una vasta area della vallata e è vista dalle alture di Tiavaia, sembra occuparne una ancor più grande. Di lassù si ha l'impressione che solo una striscia sottile di terra la separi dai piedi delle montagne. La massa di case bianche, la moltitudine di cupole che brillano al sole nel verde della valle e nel grigio delle montagne producono un effetto impensabile. Il viaggiatore, che contempla per la prima volta Arequipa da Tiavaia, è portato a immaginare che vi si nascondano degli esseri di una specie diversa che conducono un'esistenza misteriosa sotto la protezione del gigantesco vulcano, incapace di far loro del male. Il vulcano di Arequipa, isolato e perfettamente conico, è uno dei monti più alti della catena della cordigliera. Il suo colore grigio uniforme gli dà un'aria triste. La cima è quasi sempre coperta di neve, il cui strato diminuisce fra il sorgere e il calare del sole. Talvolta, specialmente di sera, il vulcano emette fumo. Io ho visto anche delle fiamme. E quando rimane a lungo senza fumare, ci si aspetta un terremoto. La sommità è spesso avvolta dalle nuvole che danno l'impressione che essa sia tronca, anche se si distinguono perfettamente le sue zone iridescenti. La massa aerea dalle mille sfumature, appoggiata sul cono di un solo colore che somiglia a un gigante che nasconde fra le nuvole la testa minacciosa, è uno degli spettacoli più meravigliosi che la natura offra all'uomo. Il vulcano non ha nome, si trova a 12.000 piedi sul livello del mare e le due montagne più vicine, che si trovano tuttavia a una certa distanza, una per parte, appaiono enormi. Una si chiama Pichain Picchu e l'altra Chachaur e sono entrambe vulcani spenti. Quando Pizarro scoprì Arequipa, la fece diventare una delle sedi del governo. E vi stabilì anche una sede vescovile. In epoche diverse i terremoti sono stati causa di disastri spaventosi. Quelli del 1582 e del 1600 distrussero quasi completamente la città. E quelli del 1687 e del 1785 non furono da meno. Le strade di Arequipa Sono ampie, ben lastricate, si incrociano ad angolo retto e nel mezzo hanno un canale di scolo. Quelle più importanti hanno il marciapiede ricoperto di grandi lastre di pietra bianche. Sono tutte ben illuminate perché ogni proprietario ha l'obbligo di mettere un lampione davanti alla propria porta, altrimenti viene multato. La piazza principale è spaziosa. Sul lato nord c'è la cattedrale, di fronte vi sono il municipio e il carcere militare. Sugli altri due lati vi sono delle grandi abitazioni private. Tutti gli edifici, eccetto la cattedrale, hanno delle arcate che ospitano botteghe di diversi tipi. La piazza è usata per il mercato, per le feste, per le parate e altro. Il ponte sul Cile è una costruzione rozza che non sembra in grado di resistere alla forte corrente di certi periodi dell'anno. Ad Arequipa vi sono molti conventi, sia maschili che femminili, e ognuno di essi ha una bellissima chiesa. La cattedrale è molto grande, buia e con uno stile architettonico pesante. Santa Rosa, Santa Catalina e Santo Francisco sono notevoli per l'altezza e la bellezza delle loro cupole. In tutte le chiese vi sono grottesche figure di legno o di gesso raffiguranti gli idoli del cattolicesimo peruviano e alcuni dipinti eseguiti con una tale rozzezza da far apparire assurdi i santi rappresentati. Sotto questo aspetto, la chiesa dei Gesuiti è un'eccezione perché in essa i fedeli possono pregare davanti a immagini più decorose dei santi. Prima dell'indipendenza, le chiese erano riccamente addobbate con candelabri, balaustre, pale d'altare d'argento e ornamenti d'oro, metalli usati con più esagerazione che buon gusto, oggetti preziosi che forse la fede non riesce più a proteggere. Alcuni presidenti e capi di partiti politici, in lotta fra loro, dopo aver svuotato le casse dello Stato, non si fanno scrupolo di spogliare le chiese dei loro tesori e di farli fondere per dare la paga ai soldati e soddisfare i vizi dei generali. I preziosi addobbi che fino ad ora sono stati risparmiati, in futuro potrebbero subire la stessa sorte. Durante la recente guerra fra Orbegoso e Bermudez, si pensava di poter derubare dei loro gioielli le statue della Vergine. Arequipa ha un ospedale, un manicomio e un orfanotrofio e i tre edifici sono abbastanza maltenuti. Ho visitato l'ospizio dei Trovatelli e quello che ho visto non mi ha certo rallegrata. È penoso vedere quelle povere creature nude, magre, in uno stato deplorevole. Ci si considera soddisfatti se per assolvere gli obblighi di carità si dà a quei bambini quel tanto che basta farli sopravvivere miseramente. Inoltre, essi non ricevono alcuna educazione né istruzione, non imparano un mestiere e a causa di questa criminale negligenza, quelli che sopravvivono sono costretti a mendicare. Mi ha colpita il modo ingegnoso in cui queste vittime vengono accolte ai brefotrofio. Esse vengono lasciate dentro a una scatola a forma di culla, aperta verso l'esterno in modo che la sfortunata madre possa abbandonare il bambino senza essere vista dall'interno e senza l'obbligo di rivelare la propria identità. Le case, di bella pietra bianca, sono molto solide. A causa dei terremoti, esse hanno un solo piano, sono generalmente comode e spaziose, con un ampio portone al centro della facciata, le finestre senza vetri, protette da sbarre e i soffitti a volta. Vi sono tre cortili. Sul primo si affacciano le stanze da letto, gli uffici e la sala dei ricevimenti. Nel secondo, al centro del quale c'è un giardino, ci sono la sala da pranzo con una veranda aperta adatta al clima, la cappella, la lavanderia e la dispensa. Sul terzo cortile, in fondo, si aprono gli alloggi degli schiavi e la cucina. Lo spessore dei muri delle case varia dai 5 ai 6 piedi e le stanze, malgrado il soffitto a volta, sono molto spaziose. Alcune pareti sono tappezzate fino a mezza altezza, altre sono imbiancate. Il soffitto a volta fa somigliare le stanze a delle cantine e il biancore totale è monotono. Il mobilio è massiccio, i letti, i cassettoni, i tavoli, le sedie sono fatti per non essere mai spostati. Gli specchi hanno cornici di metallo e le tende e la carta da parati sono privi di gusto. Per alcuni anni i tappeti inglesi sono stati così economici che tutti ne hanno uno sul pavimento. Nessuna stanza ha il parquet. Gli arechipegni amano il cibo, ma non coltivano il piacere del mangiare bene. La loro cucina è disgustosa, il cibo è cattivo e l'arte culinaria è ancora molto primitiva. La valle di Arequipa è molto fertile, ma gli ortaggi sono di qualità scadente. Le patate non sono farinose, i cavoli, la lattuga e i piselli sono duri e senza sapore, la carne è secca, il pollame è duro, come se fosse uscito direttamente dalla bocca del vulcano. Il burro e il formaggio sono trasportati da lontano e non arrivano mai freschi. E lo stesso vale per la frutta e il pesce che vengono dalla costa. L'olio usato per cucinare è rancido, lo zucchero non è raffinato, il pane è indigesto, in breve non c'è niente di buono. La colazione è alle 9 e consiste in montone arrosto, così poco appetitoso che io non sono mai riuscita a mangiarlo. Riso e cipolle. Le cipolle, crude o cotte, sono usate dappertutto e cioccolata. Il pranzo servito alle 3 comincia con una olla podrida, che in spagnolo significa pentola putrida, conosciuta in Perù come puchero, composta da una miscela di ingredienti male assortiti: manzo, montone e strutto bolliti insieme al riso, a 7-8 tipi di verdure e a tutti i frutti che capitano a tiro, fra cui mele, pere, pesche, prugne e uva. La vista, l'odore e il sapore di questo rustico intruglio sono sgradevoli, quanto le note discordanti suonate da un'orchestra. Il resto del pasto è costituito da gamberi serviti con pomodori, riso, cipolle crude e peperoncino, da vari tipi di carne cucinati con uva, pesche e zucchero, da pesce con il peperoncino, da insalata con cipolle crude, uova e peperoncino, e quest'ultimo, come le cipolle, è aggiunto a tutti i piatti, insieme ad altre spezie che bruciano la bocca. Solo un palato completamente insensibile potrebbe sopportarli. Di solito si beve acqua. La cena e alle otto consiste nello stesso tipo di portate del pranzo. Anche a tavola manca la finezza. In molte case c'è un solo bicchiere per tutti i commensali e i piatti e le posate sono sporchi. E questo non solo per colpa dei servi, perché i padroni sono tali e quali agli schiavi. È considerata buona educazione scegliere il boccone migliore dal proprio piatto e offrirlo con la forchetta a qualcuno a cui si vuole fare una gentilezza. Gli europei sono rimasti così scandalizzati da questa abitudine che essa sta cadendo in disuso. Non si viene invitati molto spesso a pranzo perché la vita è cara, ma è di moda invitare le persone ai ricevimenti serali. La domenica a casa di mio zio c'era un pranzo per la famiglia a cui venivano invitati anche gli amici intimi. La sera venivano serviti il tè e la cioccolata e si mangiavano i dolci. Le sole cose che mi piacevano erano le paste fatte dalle suore e grazie alle mie numerose conoscenze non ero mai senza e potevo fare dei deliziosi spuntini a qualsiasi ora. Gli arequipeni sono appassionati di ogni genere di spettacolo, affluiscono con uguale entusiasmo alle rappresentazioni teatrali e religiose e la loro totale mancanza di educazione li rende facili da accontentare. L'edificio teatrale è di legno ed è così mal costruito che piove dentro. È troppo piccolo per il numero di abitanti e spesso non vi si trova posto. La compagnia, rifiutata dai teatri spagnoli, è formata da 7 o 8 attori più 2 o 3 indios ed è molto scadente. Il gruppo interpreta tutti i generi teatrali, le commedie, le tragedie, le opere. Sconcia Calderón e Lope de Vega e rovina a tal punto la musica da dare sui nervi. Malgrado ciò, riscuote gli applausi del pubblico. Sono andata a teatro 4-5 volte e ogni volta si rappresentavano tragedie. Gli attori, non possedendo costumi appropriati, si avvolgevano in vecchi scialli di seta. Altri spettacoli che attraggono la folla sono i combattimenti dei galli, le danze dei funamboli sulla corda e le prove di forza compiute dagli indios. Un'acrobata francese e sua moglie hanno incassato ben 30.000 piastre. La chiesa peruviana sfrutta questo gusto popolare per aumentare la sua influenza sul popolo e oltre alle grandi processioni, per sottolineare le festività solenni, tutti i mesi vi sono spettacoli in strada. Una volta sono i francescani che vanno di sera a fare una colletta per i defunti, una volta sono i domenicani che sfilano in onore della Vergine, una volta c'è la processione per il bambino Gesù, una volta c'è quella che è per tutti i santi e non si finisce mai. Ho già descritto un corteo religioso, perciò non annoierò il lettore e la lettrice parlandone di altri. Le processioni per i santi poi sono meno imponenti, ma ugualmente grottesche, e le indecenti buffonate che divertono il popolo sono altrettanto scandalose. Hanno tutte una cosa in comune: i bravi monaci chiedono sempre soldi e il popolo glieli dà. È durante la Settimana Santa che hanno luogo le feste più selvagge del cattolicesimo peruviano. In tutte Le chiese di Arequipa si costruiscono dei mucchi di terra e di pietre che simboleggiano il Calvario e vi si piantano dei rami di olivo. Su di essi il Venerdì Santo si rappresenta la passione di Nostro Signore, il suo arresto, la flagellazione, la crocifissione con l'accompagnamento di canti. Al momento della morte del Cristo le candele vengono spente e regna il buio. Si può facilmente immaginare quello che succede negli angoli della chiesa affollata, data l'immoralità della popolazione. Ma Dio misericordioso ha dato ai monaci e ai suoi ministri la facoltà di concedere l'assoluzione. La seconda rappresentazione è la deposizione. Una folla di uomini e donne, bianchi, neri e di colore, corre su per la collina emettendo urla strazianti, sradicando gli alberi e sparpagliando le pietre. Essi scacciano i soldati, afferrano la croce e tirano giù il corpo. Dalle ferite del Cristo di cartone comincia a uscire del sangue e la folla raddoppia le urla. La gente, i preti, la croce, i rami di ulivo creano nell'insieme una scena di grande confusione che non ci si aspetterebbe di trovare in un luogo di culto. La rappresentazione termina quasi sempre con il ferimento più o meno grave di qualcuno. La sera gli abitanti si riversano in strada e recitando preghiere raggiungono le chiese dove partecipano alla Via Crucis. I più devoti si gettano in ginocchio e baciano il suolo, alcuni si percuotono il petto o si coprono il capo di stracci, altri camminano a piedi nudi reggendo sul dorso la croce, altri ancora barcollano sotto il peso di lastre di pietra. In ogni casa, lo zelo superstizioso spinge i fanatici a follie assurde. In cerca di guida, essi si rivolgono al soprannaturale, non alla propria coscienza. Alla messa della domenica gli uomini restano in piedi a parlare e a ridere e fissano le donne graziose inginocchiate davanti a loro, in parte nascoste dalle mantiglie. Le donne non hanno il libro di preghiere e si distraggono facilmente dal servizio. A volte esaminano quello che indossa la vicina o parlano con la serva nera seduta dietro di loro, a volte si sdraiano sul tappeto e dormono o fanno conversazione. I monaci che celebrano la messa hanno un aspetto trasandato e gli indios che li aiutano sono scalzi e mezzi nudi. Due violini e una specie di zampogna suonano insieme all'organo in modo discordante. La musica è orribile e il canto è così stonato che è impossibile assistervi per un quarto d'ora senza sentirsi irritati per il resto del giorno. Non è come in Europa, dove l'arte dà lustro alla sterilità del rito. In Perù la chiesa è solo un luogo dove le persone si incontrano. Il grado di civiltà raggiunto da un popolo si riflette in ogni cosa. Ad Arequipa i divertimenti del carnevale non sono meno indecenti delle buffonate farsesche della Settimana Santa. Vi sono persone che si guadagnano da vivere tutto l'anno svuotando i gusci delle uova e riempiendoli di colore rosa, blu, verde, rosso e richiudendo l'apertura con la cera. Le signore si vestono di bianco, poi mettono alcune uova nel paniere, si siedono sul tetto di casa e le lanciano sui passanti. Questi ultimi, a piedi o a cavallo, sono armati degli stessi proiettili che rilanciano verso le donne. Per rendere il gioco più divertente, le uova possono essere riempite di inchiostro, di miele, di olio e di altre cose. Mi sono state indicate due o tre persone che hanno perso un occhio in questo tipo di battaglia, ma malgrado il loro esempio, gli arechipeni continuano ad avere un entusiasmo appassionato per questo sport. Le signore mettono in mostra le numerose macchie sui loro vestiti e sono orgogliose di queste strane manifestazioni di galanteria. Anche gli schiavi partecipano al divertimento, tirando della farina, che è meno costosa. La sera vanno tutti nelle sale da ballo dove si eseguono delle danze indecenti. Molte persone indossano dei costumi bizzarri che hanno poco di caratteristico e i divertimenti vanno avanti per una settimana.